America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The more we get into this, the larger the area they're searching. You were saying we're now searching an area that goes from Kazakhstan all the way down to Australia. Face the Nation, Bob Schiffer. Beh, gran parte dei programmi del mattino di ieri hanno dedicato in America le loro trasmissioni al mistero dell'aereo scomparso, il volo 370 della Malaysian Airlines, un mistero che ha affascinato non solo l'America ma il mondo intero, anche perché dopo che Edward Snowden ci ha detto che siamo spiati dappertutto, che nulla può sfuggire al grande fratello, beh, il fatto che un Boeing 777, uno dei più grandi, sparisca del nulla e non se ne sappia più niente, beh, devo dire, lascia davvero esterrefatti. Ma se il mistero continua per la storia dell'aereo, beh, non c'è più mistero in Crimea. Il referendum è avvenuto, direi che questa diventa per noi la notizia del giorno, con reazioni immediate da parte degli Stati Uniti. Sentiamo John Kerry. We believe the referendum is contrary to the constitution of Ukraine, is contrary to international law. Is in violation of that law, and we believe it is illegitimate. Il segretario di Stato americano ha già commentato: il referendum è illegittimo, e ha ripetuto un po' le cose che sappiamo. Ci vorranno sanzioni collettive da parte europea, da parte del G7, insomma c'è tutta una procedura per cercare di isolare la Russia. Però Kerry ha anche lasciato uno spiraglio, si è sentito ieri pomeriggio di nuovo con Lavrov, beh, per protestare per la presa di questo impianto di gas ai confini con la Crimea da parte delle truppe russe, quindi di nuovo una violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Però i due hanno anche cercato di immaginare una soluzione politico-diplomatica. Ecco, credo che diventi essenziale trovare un accordo. L'America è pronta a un accordo fra Ucraina e Russia, anche perché altrimenti le conseguenze economiche sarebbero disastrose. E direi che è su questo che vorrei soffermarmi oggi, perché le conseguenze economiche per una continua escalation della tensione sarebbero davvero preoccupanti. Il primo campanello di allarme, che dovrebbe essere in qualche modo significativo, è venuto da Wall Street. Pensate, la settimana scorsa si era aperta nei primi giorni, beh, con alcuni segnali di incertezza. Poi, quando si è capito che la tensione, quantomeno sul piano retorico, stava salendo, beh, abbiamo avuto delle forti cadute la prima giovedì e poi di nuovo un'altra correzione venerdì. Complessivamente lo Standard & Poor's ha perso il 2%, il Dow Jones il 2,4%, il Nasdaq il 2,1%. È stata la peggiore settimana in oltre due mesi. La ragione? Beh, proprio le tensioni sul fronte ucraino. E questo elemento di preoccupazione arriva in un momento, beh, diciamo che sul piano simbolico è piuttosto delicato. Perché? The S&P 500 surged to a record close with all three major indices having their best gains of the year. Il toro ha compiuto 5 anni esattamente una settimana fa, un galoppo impressionante dal 9 marzo del 2009, quando precipitò a quota 666 punti, il simbolo del diavolo, ricordiamolo, fino al 7 marzo scorso. L'aumento dell'indice era stato senza interruzione e lo Standard & Poor's 500, pensate, è salito del 175% in questi 5 anni, una performance battuta solo dall'aumento del 228% del periodo 1982-87. E proprio alla fine di quel periodo, nel 1987, ricordiamolo, alla fine di quel periodo di 5 anni, ci fu il famoso crollo di Wall Street, il lunedì nero, una perdita del 22,6% il 19 ottobre del 1987, una giornata drammatica, una giornata di panico. Per fortuna poi ci si è fermati lì, la borsa non ha continuato a precipitare, ma poi gradualmente ha recuperato i valori per chiudere la fine dell'anno con perdite più contenute. E oggi, beh, oggi abbiamo l'Ucraina che intimorisce, ma abbiamo anche il Venezuela che è in crisi, abbiamo un aereo che è sparito nel nulla, l'economia cinese che non rassicura. Dunque dobbiamo chiederci: possibile che ci sia una correzione forte dietro l'angolo? Certo, se la situazione, se la crisi in Ucraina dovesse continuare a peggiorare, beh, i mercati probabilmente will take their profit, gli investitori cercheranno realizzi di profitto. Perché? Beh, perché dietro questa crisi ci sono delle componenti economiche non da poco. L'Ucraina è dipendente dalle esportazioni di gas o comunque di energia dalla Russia, sta cercando di collegarsi con gli Stati Uniti per ottenere delle esportazioni a sua volta di gas e di energia ottenuta con il fracking, questa nuova tecnologia che consente estrazioni di gas e di petrolio che fino a qualche anno fa erano inaccessibili ad un buon prezzo. Ci sono degli aiuti da parte dell'America. L'Ucraina stessa vuole sviluppare le tecniche di fracking per vedere se può sfruttare risorse energetiche nel suo territorio. Questo di rimando innervosisce la Russia, una Russia che prospera soprattutto grazie alle esportazioni energetiche, perché la sua economia è in uno stato veramente molto molto difficile. Non è riuscita la Russia a fare quel passaggio dell'utilizzo delle risorse energetiche per poi investire in infrastrutture e in strutture industriali. Dunque il contesto economico è un contesto difficile, ma c'è il rischio di uno shock, c'è il rischio di una perdita del 10% in un giorno. Ecco, secondo me non c'è la soluzione più saggia, quella che tutti auspicano, una soluzione diplomatica. Barack Obama lo ha detto, lo ha ripetuto: se l'Ucraina e la Russia si mettono d'accordo, beh, andrà benissimo a noi, soprattutto in questa coincidenza simbolica, una caduta il 19 ottobre dell'87 dopo 5 anni di corsa, e adesso siamo alla fine di 5 anni di corsa, e qualcuno dice, forse siamo davvero a una correzione, a una bolla. Secondo me non sono però sullo stesso livello. Perché? Perché la prima corsa del toro portò ad aumenti del 228% rispetto ai vecchi massimi, furono dunque degli aumenti reali. Questa seconda corsa, quest'ultima corsa, la nostra corsa, invece, ha semplicemente recuperato e superato di poco in 5 anni i valori record del pre-crisi. Ci sono voluti dunque 5 anni per recuperare. Nervi saldi, dunque. A meno che, dicono i pessimisti, non scoppi una guerra fra NATO e Russia. Tutti gli elementi di oggi puntano agli stessi elementi che c'erano esattamente 100 anni fa, nel 1914, elementi che poi esplosero nella prima guerra mondiale. Pessimismo eccessivo, direi, perché per fortuna non siamo più nel 1914. Per ora è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!